arbitrare, prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come il si vendica e tenda bellaccio. Vedrete di Tonio tremar la carcassa e quale matassa d'intrighi ordirà. Venite, onorateci, signori e signore, a 23 ore, a 23 ore. Vada pagliaccio!